9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon ultimo venerdì di luglio. Questo 29 di luglio noi lo dedichiamo a un po' di riflessioni che speriamo vi possano dare qualche fiducia, ma soprattutto qualche strumento per interpretare ciò che tutti i giorni i mercati continuano a riservare al nostro paese nel quadro di uno strategia di sconto, di apprezzamento delle conseguenze di breve medio periodo dell'accordo di giovedì della settimana scorsa, il Consiglio Europeo straordinario con il terzo round di aiuti alla Grecia e come i mercati hanno reagito a questo accordo, e poi l'altro elemento importante unito alla perdurante crisi europea è quello degli Stati Uniti. Passano le ultime ore, si consumano fino a questo momento senza un accordo, che ci separano dalla scadenza fatidica del 2 di agosto. Il 2 di agosto, lo sapete, scade la data entro la quale il Congresso dovrebbe raggiungere americano un accordo sul nuovo tetto del debito pubblico federale. Il debito pubblico federale, in quel paese esiste un limite quantitativo al debito pubblico autorizzato che può essere emesso. Questo tetto viene raggiunto il 2 agosto ed è un tetto pari a 14.300 miliardi di dollari, quindi quasi 100% del PIL americano. E se non c'è un accordo tra amministrazione Obama e Congresso, dal giorno dopo, poiché gli Stati Uniti sono un paese dalle norme strette, a volte quasi incomprensibile ai nostri occhi, tanto sono strette, innanzitutto non si pagano più un bel pacco di miliardi di pensioni pubbliche e non c'è come pagare un bel po' di dipendenti federali. E quindi vediamo naturalmente che cosa avviene. Ci sarà un compromesso all'ultimo secondo, sì, ma in ogni caso non tale da dare l'idea ai mercati e agli stessi americani che c'è una ripresa di controllo solida dell'andamento della finanza pubblica, e soprattutto con un quadro di disoccupati che torna a salire verso il 10%. Come lo facciamo? Lo facciamo con ospiti che anche oggi traiamo, come ieri, da Cortina Incontra, che è cominciata in questi giorni e fino alla fine di agosto segna il luogo dove ormai da 10 anni a questa parte si intrecciano e si incrociano i protagonisti del dibattito pubblico, dell'informazione, del mondo della cultura, anche del mondo dello spettacolo nel nostro paese. E questo appuntamento è diventato il punto di riferimento in tutto il mese di agosto. In 10 anni si deve all'intelligenza, alla passione, alla voglia di lavorare mettendo insieme i protagonisti della vita italiana di Enrico Aiole Cisnetto. Enrico Cisnetto è tra l'altro collegato con noi stamattina, io lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno e grazie. Buongiorno, Enrico. Buongiorno, grazie. Abbiamo con noi anche in questa prima parte della trasmissione l'ambasciatore, l'ex ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Giovanni Castellaneta. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a tutti. Che per anni, occupandosi molto direttamente di vita economica e imprenditoriale, appunto ha rappresentato il nostro paese lì. La prima domanda che voglio fare, Enrico, è che stato d'animo è? Nel senso che la politica italiana in questi giorni continua a offrire un quadro che è quello di cui ci siamo occupati ieri, un quadro venato da delegittimazioni, polemiche giudiziarie, nuovi particolari ogni giorno su scandali e tangenti. Oggi, per chi è interessato a seguire la vicenda che ha lambito il ministro del tesoro Giulio Tremonti, cioè la vicenda giudiziaria di Milanese, c'è la risposta sul Corriere della Sera del ministro Tremonti all'articolo duro, severo, che l'ambasciatore Sergio Romano gli ha ieri riservato sulla prima pagina del Corriere. Il ministro ha smentito anche ieri ipotesi di dimissioni, ha detto mi dimetto solo da inquilino, ma resta un fatto, Enrico. I mercati hanno interpretato l'accordo europeo come un accordo che si può applicare alla Grecia, al più forse ve ne fosse bisogno a economie piccole come il Portogallo, ma è escluso che si possa applicare un domani all'economia italiana. Quindi forte stimolo a continuare a giocare al ribasso. Abbiamo appreso anche l'entità della disintermediazione di titoli di banche italiane e di debito pubblico italiano da parte di giganti di bancari tedeschi come Deutsche Bank. Il tuo stato d'animo qual è rispetto ai fondamentali dell'Italia e delle banche italiane, che sono oramai prezzano cose ridicole rispetto ai loro fondamentali? Continuerà questo gioco al ribasso in questo mese di agosto, anche se Tremonti ha annullato le aste? E che cosa si deve aspettare il risparmiatore e l'investitore a settembre, quando ci saranno nuove aste e la polemica riprende? Sarà ancora più forte a settembre o si ferma magari? Ma qui si sommano due situazioni. Una è quella che tu hai descritto, cioè quella derivante dalla percezione, che credo abbiano ormai anche le pietre, del fatto che non tanto, non solo questo governo, ma il sistema politico italiano nel suo insieme è arrivato al capolinea, si sta chiudendo lentamente, troppo lentamente, una stagione politica, si sta chiudendo nello stesso modo nel quale si è chiusa nel 92, quasi 20 anni fa, la stagione politica della Prima Repubblica, e cioè con i protagonisti che non si rendono conto, o quantomeno non fino in fondo, del passaggio che stanno vivendo, e con avvenimenti principalmente di natura giudiziaria che, diciamo, che caratterizzano, che fanno da sfondo a questa fine della stagione politica, che ha ragioni più squisitamente politiche, come le ebbe allora, e cioè che è sostanzialmente fallito agli occhi degli italiani un modo di governare o di non governare che ha reso quella che abbiamo chiamato forse impropriamente Seconda Repubblica appunto una stagione fallimentare. Di fronte a questo non è che i mercati leggano, diciamo, i dettagli delle nostre vicende, percepiscono che c'è un sistema che è a capolinea e percepiscono che però questo sistema non è ancora pronto a farsi da parte, così come soprattutto non c'è ancora un sistema successivo immaginato, descritto e in qualche modo iniziato a svezzare che possa venire successivamente. Una fase di questo genere è una fase perfetta per un intervento di tipo speculativo. Se poi a questo si somma uno scenario europeo in cui ci sono voluti 16 mesi per intervenire su un debito che è 7 volte più piccolo di quello italiano, come quello della Grecia, un paese che è il 2% del PIL continentale, quindi insomma un paese relativamente marginale, ci sono voluti 16 mesi e non sappiamo se l'ultimo intervento in una riunione che addirittura è stata definita storica, che francamente di storico secondo me non ha avuto niente, e siamo ancora lì a domandarci se sarà stato l'ultimo e se sarà quello decisivo, beh, a maggior ragione è del tutto evidente, come accennavi tu, che quegli interventi non servono per i paesi più grandi come la Spagna e il Portogallo. Le agenzie di rating stanno giocando un gioco che sinceramente sta diventando veramente pesante, anche stamattina sentivo che ci sono annunci di possibili declassamenti sulla Spagna. Beh, insomma, francamente in questo contesto è veramente difficile immaginare che in agosto non prosegua la campagna speculativa e che ci si possa tenere tranquilli. Mi sembra, francamente, non ho la sfera di cristallo, ma mi sembra francamente che si debba mettere nel conto che in questa estate ci sarà ancora pesantemente questa situazione, e la mia domanda è, che poi credo paradossalmente diventerà lo stesso tipo di domanda che ci faremo per gli Stati Uniti, perché quella degli Stati Uniti mi sembra assolutamente una crisi politica e non una crisi economico-finanziaria, o non solo una crisi economico-finanziaria. La domanda è: riusciamo a dare una risposta a questa dimensione politica della crisi, sia quella italiana sia quella europea? Sinceramente non ne vedo ancora i barlumi di una possibile risposta, e questo rende la nostra situazione molto vulnerabile. Naturalmente, per quanto riguarda i risparmiatori, l'unica cosa da fare è allacciare il cinturone di sicurezza e cercare di non avere, come sempre si consiglia in questi casi, reazioni che possono essere solo che dannose. Certo, siccome i risparmiatori sono anche cittadini italiani, io credo che come cittadini dovremmo porci diciamo in maniera molto forte il problema di esternare il più possibile questa preoccupazione, ma soprattutto di cercare di non perdere tempo con l'antipolitica, che non ha mai portato da nessuna parte, e cercare invece di individuare le vie d'uscita. Ambasciatore, non è che gli Stati Uniti in questi anni, gli anni dell'amministrazione Obama, all'inizio additata come una svolta rispetto a un paese che si avvertiva con una leadership politica in declino, ma non è che invece poi nel procedere della crisi e nell'evidenza crescente agli occhi dell'elettorato americano, si è visto nelle elezioni del midterm, una severa legnata per l'amministrazione, un'opinione che ha iniziato a dubitare l'elettorato dell'efficacia di tanta spesa pubblica, tanto debito pubblico, senza che gli effetti poi sull'economia si vedessero. E non è che per caso anche gli Stati Uniti hanno iniziato ad ammalarsi dello stesso virus europeo e un po' italiano, quello che descriveva adesso Enrico Cisnetto applicato all'Italia, quando diceva i mercati capiscono che la risposta del governo è inefficace, ma una nuova e più efficace a portata di mano non c'è. È un po' la sensazione di un'America nello stallo politico, bloccata, paralizzata dai veti tra repubblicani e democratici, e con un presidente che un po' si dibatte impotente. Non è che si veda spesso, siamo abituati a un'idea dell'America, giusta o sbagliata, spesso un po' caricaturale anche, giusta o sbagliata che sia, di un'America che di fronte a sfide pesanti risponde con efficacia ed energia. Qui invece le ore e i giorni passano e loro rischiano il default. C'è un virus di indebolimento strutturale nell'America? Ma sì, io sono d'accordo totalmente con Cisnetto, gli fattori economici si intrecciano a quelli politici, e la deadline del 2 agosto è un po' il sintomo di un contrasto molto più forte che io direi che sulla politica economica futura del futuro presidente, chi sarà il futuro presidente. Tutto questo si inquadra poi nel traguardo del novembre del 2012, quando gli americani dovranno eleggere il nuovo presidente. Di solito il presidente che perde alle midterm election negli ultimi 100 anni è sempre stato rieletto. In questo caso però i repubblicani proprio una volta vedono che questa tradizione potrebbe essere rivoltata, perché vedono appunto un Obama in difetto di leadership, non riesce a controllare intanto il suo partito, che è diviso tra, diciamo, quelli un po' più liberali e quelli più conservatori, e ponendo questo limite del 2 agosto, che è un limite drammatico, anche se poi molti hanno già spiegato è più un fatto tecnico che non poi un fatto economico, perché sempre nel passato c'è stato questo limite e poi in certo momento si è trovato il sistema per superarlo, ma lo scontro è tra il big government dei democratici, accusati di fare spese, di ampliare il ruolo del governo nel paese, e i repubblicani che dicono meno tasse, meno spese, e quindi un contrasto di fondo su quelle che sono le linee economiche del paese. In tutto questo appunto lo scontro è diventato talmente politico che cominciano anche a venire fuori idee di un terzo partito, il terzo partito dell'America, che potrebbe riunire i delusi democratici e repubblicani. Thomas Friedman, questo grande scrittore, no, ha lanciato questa idea di una American Select, no, una selezione del futuro candidato a novembre 2012 fatto attraverso delle primarie online. Questo vuol dire che un paese, sì, che noi sempre immaginato monolitico tra democratici e repubblicani, adesso si dibatte verso, non dico una terza via, ma verso lì trovare il sistema per sistemare a lungo termine, non a breve termine, i problemi strutturali, che sono quelli che sappiamo: disoccupazione, scarso consumo, debito che ha raggiunto appunto i 14.000 miliardi, che erano, partendo dai 40 miliardi credo del subito dopo guerra, non, e con un deficit del 10%, quindi dei dati che in Europa farebbero inorridire, se non fosse che gli Stati Uniti sono un paese unitario, quindi una politica fiscale comune, noi siamo divisi. Cisnetto, quando diciamo preparatevi a un agosto e un settembre con la cintura di sicurezza allacciata, sono tue parole testuali, mi pare che siano giuste da condividere, noi ancora una volta è come se dicessimo agli italiani: ragazzi, che bisogna fare? Mettiamoci in autotutela, c'è però qualcuno a cui dobbiamo il fatto che poi, malgrado, ripeto, i fondamentali delle banche non meritino questi prezzi sui mercati, però c'è un sistema al quale i mercati riservano questo giudizio. Questa volta non ti chiedo un giudizio economico, ti chiedo una stima di quello che secondo te sé, nelle carte, nei giornali, nell'evoluzione anche diversa in termini di velocità degli anni recenti del nostro paese, vedi di come può cambiare a settembre, alla ripresa, la politica italiana rispetto a questo, cioè all'efficacia di nuovi provvedimenti? Cosa può avvenire? Può avvenire che il Quirinale, di fronte a spread che potrebbero benissimo toccare dopo questi giorni di nuovo, una volta che riprendono le aste a settembre, tornare verso quota 400, cosa potrebbe avvenire? Che il Quirinale convoca il governo e dice: beh, in vista della finanziaria bisogna ulteriormente dare un giro di vite? Oppure può avvenire che a quel punto sia il ministro dell'economia, indicato dal Premier come l'autore della manovra, che non basta e vada a casa? Può avvenire che se ne caschi tutto e ci aspetta la patrimoniale a breve, come ieri Giuliano Amato è sembrato farci capire e intendere? Tu che cosa ti aspetti? Ma guarda, è veramente una domanda da un miliardo di dollari, perché in realtà tutte queste possibili vie d'uscita, mettiamolo tra virgolette la definizione, sembravano esserci lì. Cioè, quante volte in questi ultimi mesi abbiamo avuto la sensazione che le vicende personali del Premier fossero tali che stava per accadere che lui lasciasse o fosse costretto a lasciare, che alcune vicende giudiziarie implicassero degli elementi tali da far saltare tutto il pentolone, che la pressione speculativa, quando è arrivata a 350 punti, fosse il momento decisivo per far scattare un meccanismo di un cortocircuito di reazioni tali da... tutto questo non è successo. Allora, anche sul palco di Cortina Incontra, con alcuni interlocutori, si è fatto il ragionamento: ma se non è successo fino adesso, non succederà. E quindi c'è una prima ipotesi, che è quella della continuità, seppure in condizioni di grande precarietà e instabilità, ma una continuità addirittura fino al 2013, fino alla fine di legislatura. Io francamente faccio fatica, non solo dal punto di vista di quello che vorrei, ma anche dal punto di vista del calcolo delle probabilità, a pensare che questa possa essere lo scenario, anche se devo ammettere che questo ragionamento l'ho già fatto nei mesi scorsi, e per adesso il fatto che io mi aspettassi che succedesse qualcosa non è avvenuto, e quindi potrebbe anche essere che questa teoria della continuità, nonostante tutto, abbia un suo fondamento. Francamente, tra le tante cose, io ho sempre pensato che il punto di rottura fosse politico, e cioè fosse una scelta della Lega che in qualche modo, facendo i conti, arrivava a decidere che nel calcolo dei vantaggi e degli svantaggi tra continuare e rompere, alla fine pesasse più dalla parte della bilancia della rottura e scegliesse un provvedimento particolarmente popolare, il fatto che rompesse su quello e su quello si creasse la crisi politica. Era sembrato che questo potesse essere il voto l'altro giorno sull'arresto di Papa, ma così non è stato, perché anche quello in qualche modo è stato riassorbito. E quindi, che ti devo dire, tutto congiura a far pensare che la legislatura non possa andare avanti e che quantomeno le elezioni in primavera dovrebbero essere, ragionevolmente, se ci fosse un bookmaker in attività, dovrebbe essere quello sulla quale scommettere di più. Però appunto c'è anche quest'altro elemento di cui ti ho detto. Personalmente io mi auguro, ma non oggi, ma me lo auguravo già da parecchio tempo, che la cosa finisse qui. Naturalmente non per andare a votare genericamente e dire: adesso rimettiamo la palla in mano agli italiani, perché siamo in una situazione come quella del 94, quindi c'è il problema di reinventare il sistema politico, e quindi non è che le elezioni in quanto tali, a parità di legge elettorale e a parità di soggetti che vi partecipano, possano in qualche modo dare una risposta, perché è inutile nasconderci dietro un dito: il centrosinistra potrebbe anche vincere le prossime elezioni, ma se le vincesse avrebbe dentro di sé tutte le contraddizioni che ha avuto l'ultimo governo Prodi, che non a caso non ha finito la legislatura, è durato 2 anni, quindi non av- avremmo una soluzione, ci sarebbe l'illusione, l'ennesima illusione di una situazione che invece non si sbloccherebbe. Quindi il vero tema è quello di immaginare qualcosa di diverso. Certo, in questo momento tutti o quasi tutti i luoghi, dico quasi perché non la tua trasmissione, non il mio evento cortinese, ma quasi tutte le pagine dei giornali, le discussioni pubbliche vertono su questioni minimali, francamente io so di attirarmi l'attenzione negativa di qualche ascoltatore, ma io francamente sui privilegi della casta non riesco a innamorarmi, ma non perché non ci siano e non sia giusto stigmatizzarli, ma perché non sono quello il cuore del problema. Il cuore del problema è il superamento del sistema politico che fino qui abbiamo avuto, e quello è un passaggio molto più decisivo che non togliere qualche auto blu. Sono completamente d'accordo, e aggiungo quello che ha detto Enrico Cisnetto sulla legge elettorale, aggiungo che anche modifiche dell'offerta politica, lui l'ha detto e andava sviluppato, nel senso che dal basso e dall'alto, da chiunque può, deve e abbia a cuore la possibilità per questo paese di mettere a frutto le sue capacità di lavoro, la patrimonializzazione elevata degli italiani, eccetera, la necessità di mettere a mano a questo centrodestra che ha non mantenuto le sue promesse, mi limito a dire questo, mi verrebbe di dire molto peggio, e al centrosinistra con le sue contraddizioni. Se non si mette mano a questo, anche all'offerta politica, oltre che alla legge elettorale, è come non aver capito la lezione di questi anni, cari ascoltatori che state reagendo con gli sms, perché come prevedeva Enrico Cisnetto, appena si tocca la faccenda della casta ci li state difendendo. No, la questione di fondo è però che un paese che si mette sotto ogni giorno un po' con le sue mani deve capire che deve riprendere la pala e scavare nella direzione giusta per tornare verso la luce. Ecco, questo è il senso poi più profondo della riflessione. È vero che ci sono dei fattori, quello europeo, quello americano, eccetera eccetera, ma c'è un pezzo di risposta, cari ascoltatori, che solo fatto con la somma degli atteggiamenti di ciascuno di noi può portare a trarre lezione da quello che è avvenuto sotto i nostri occhi in questi anni recenti. Ora andiamo in pubblicità. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati a parlare del scenario crisi europea, scenario crisi americana, del debito federale, del tetto che si supera il 2 agosto, mercati che continuano a vendere e quindi ad avere una strategia ribassista sull'Italia. Ieri è stato il primo giorno in cui si è vista una specie di inversione della tendenza che accomunava il ribasso del nominale dei titoli pubblici, quindi un aumento dello spread, e il ribasso degli andamenti dei corsi dei titoli bancari. Per la prima volta si è visto un segno, bisognerà vedere se continua. All'inizio di sessione di oggi non andava nella direzione un pochino meno pessimista di ieri, purtroppo, e mi sembra che gli ultimi dati da Piazza Affari confermino che si torna al pessimismo. In tutto questo abbiamo parlato di come contribuisce all'immagine dell'Italia questa sensazione di inefficacia al circuito politico, di inefficacia molto profonda rispetto ai nodi strutturali, e sia pure avendo appena varato una manovra che mette in agenda l'azzeramento del deficit di qui al 2014, due sere fa una reazione all'ennesima giornata in cui i titoli italiani andavano giù, una reazione inusitata. E qual è stata questa reazione inusitata? Quella che ha visto tutte le associazioni di imprese italiane, l'intera rete Impresa Italia, che è stata la novità, no? dell'anno scorso, con tutte le associazioni del commercio, dell'artigianato, eccetera, che si sono date un coordinamento unitario, loro, Confindustria, le centrali delle cooperative dei diversi tipi, il sistema bancario con l'ABI e tutte le confederazioni sindacali hanno stilato un documento comune. Non capita quasi mai. Un documento comune in cui hanno messo all'ordine del giorno una richiesta forte, perché hanno usato un termine, discontinuità, che è un termine che si può adottare sia in riferimento alle politiche di questo governo, ma sia all'intero quadro politico, sia al governo stesso, ai punti più rilevanti e responsabili nel governo di risposte che il mercato giudica in questo modo, cioè inefficaci, inefficienti, come ha detto Enrico Cisnetto primo. Allora, di fronte a questa parola discontinuità, la mia impressione è che la reazione della politica sia rimasta da una parte colpita, volta lì per lì a minimizzare, si è letto di commenti Berlusconi, ma sì, ma sono divisi tra loro, cosa volete che vuoi? Da una parte però si vede anche in interviste come oggi quella di Romani, interviste pensose, cioè che misurano le parole, cioè capiscono che se tutto il mondo della produzione italiana, tutti i tipi di impresa, tutti i sindacati, tutto il mondo bancario iniziano a dare reazioni di questo tipo dicendo discontinuità, vuol dire che in effetti anche lì ci avviciniamo in una condizione simile a quella dei crisi terribili dell'Italia sui mercati, come quella che, di cui poi fu espressione la risposta del governo di Giuliano Amato, ricordate, quando poi mise anche le mani nelle tasche dei cittadini. Allora abbiamo con noi Ivan Malavasi, che è il portavoce di turno, per così dire, di Rete Impresa Italia, a nome della sua organizzazione. Lo ringrazio, buongiorno Malavasi. Ehi, radioascoltatori. Allora ci spiega un pochino da parte sua, innanzitutto per la sua associazione e per Rete Impresa Italia, qual è il tipo di reazione a questo andamento sui mercati, perché due sere fa tutti insieme avete deciso di chiedere questa parola di discontinuità, e anche concretamente lei in realtà che cosa si attende? Beh, diciamo che sottolineo anch'io un aspetto che lei ha già detto molto bene, è una novità assoluta che tutte le sigle nel giro di un paio d'ore di telefonate tra i presidenti dell'associazione si arrivi a un documento congiunto. Questa è la testimonianza di una enorme preoccupazione che vive il mondo dell'impresa, che vive il mondo dei lavoratori, rispetto a un attacco sul debito pubblico, sui titoli di Stato, che viene dalla speculazione finanziaria, ma anche, come dire, un'interrogazione che ci facciamo noi e che rivolgiamo alla politica, dicendo avete fatto una grande manovra, ognuno ha assunto un senso di responsabilità lasciandola fare in pochissimi giorni, come tutti ricorderanno, in 3 giorni è stata decisa la manovra, ognuno ha rinunciato alle proprie peculiarità delle eventuali emendamenti da fare, perché c'era bisogno di dare un segnale forte del nostro Paese nei confronti dei mercati internazionali. Il segnale è arrivato, la mattina dopo la politica italiana è ripresa come era prima. E evidentemente la fiducia nel nostro paese, che sta discutendo d'altro, di polemiche di ogni genere, ha fatto sì che la fiducia e l'attacco della speculazione, per ormai sono 10 giorni che siamo sotto tiro, non è purtroppo solo ieri né tanto oggi che la partenza non preclude a notizie positive, insomma si combinano due elementi, che il combinato disposto di queste due cose, la fiducia e la speculazione finanziaria, con una preoccupazione di reale ripresa, di agganciare una ripresa che comunque all'interno del mondo c'è, e l'Europa fatica e dentro Europa noi fatichiamo di più, che sono le politiche rivolte alla crescita. La nostra domanda, la politica, anche lei ha sottolineato un tema che è abbastanza inusuale, che è la discontinuità, e contiene entrambe, il richiamo anche alle cose che lei ha sottolineato, discontinuità nelle politiche, se ci sono in condizioni per farlo, ma discontinuità anche tra ciò che si dice e ciò che si fa. Siamo in una condizione dove non possiamo più permetterci, come dire, di dare altri danni al Paese. Invitiamo la politica a assumersi la responsabilità di salvare questo Paese di fronte ad una difficoltà maggiore. Sbaglia, secondo me, la politica quando valuta, come dire, con leggerezza questa reazione del mondo dell'impresa e del mondo del lavoro. Pensiamo che sia utile che riflettano e che diano risposte più aggregate dentro il Parlamento, che non è un problema solo del governo, è proprio della politica, della classe dirigente del Paese. In questo manifesto molto breve, molto preciso, molto secco, secondo me c'è anche un elemento che forse non si coglie fino in fondo, che dice: se voi siete disposti a cambiare, siete disposti a mettere mano alla guida del Paese, noi associazioni siamo disposti a fare la nostra parte. Quindi ai sacrifici a fronte di politiche vere di ripresa. Le politiche vere di ripresa sono varie, le ricette non sono mille, sono abbastanza condivise da tutto il mondo, che sono arrivare a processi di liberalizzazione vero per liberare risorse, energie, semplificare finalmente i pezzi eccessivamente burocratici di questo Paese che rappresentano una zavorra per la competitività, e la politica finalmente dia un messaggio di, come dire, chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese, facendo anche lei i suoi sacrifici, tagliando, ma non perché è un costo in sé, tagliando perché ci sono ridondanze e privilegi che non sono più sopportabili con la vita di imprese e cittadini. Io ringrazio Ivan Malavasi. Chiedo a Enrico Cisnetto, è un fatto secondo te che in questi anni di fronte alla crisi in realtà le associazioni di impresa, il sindacato, il sistema bancario abbiano tentato di fare più fronte comune che dividersi, come dire, che abbiano dato dimostrazioni di coesione rispetto al passato della storia italiana in cui ci si divideva di più, in realtà tranne vicende che pure hanno un forte impatto simbolico come quello della Fiat e la FIOM, per il resto prevale la volontà di trovare soluzioni comuni e di mettersi insieme. Di questo la politica secondo te da una parte e dall'altra ha capito che cosa vuol dire e ne ha tratto in qualche misura lezione, oppure sono due binari che si separano, la responsabilità di chi fa il PIL col lavoro e con l'impresa da una parte e dall'altra la politica? No, sicuramente la politica non ha capito o comunque non è stata in grado di dare risposte, altrimenti non saremmo nella situazione in cui siamo e non faremmo i discorsi che facciamo. Io ovviamente conosco troppo bene le dinamiche delle parti, la storia del comportamento delle parti sociali in Italia per sottovalutare l'importanza del documento che è stato fatto, di fronte al quale ho avuto l'istintiva reazione positiva che ho avuto quando è stata approvata in due giorni la manovra finanziaria l'altra settimana, cioè che finalmente ci fosse un segno, anche se come dicevi tu negli ultimi tempi dal fronte delle parti sociali erano già arrivati segnali molto più che della politica di momenti di coesione. Però detto questo, quindi non sottovalutando, c'è un limite a questa iniziativa, e cioè che ancora una volta è un'iniziativa, come dire, che si rivolge al sistema che c'è, a quello che c'è, dicendo facciamo appello alla vostra responsabilità e vi chiediamo di fare le cose che ci sono da fare. Qui invece, secondo me, caro Malavasi, c'è bisogno di fare un passo ulteriore, prendere atto che quello che c'è non è in grado, quindi è inutile, se no diventa una predica al deserto, noi possiamo fare tutti gli auspici che vogliamo, ma in una situazione di questo genere gli auspici purtroppo non servono, e quindi prendere atto che quello che c'è, questo sistema politico non funziona, è fallito e dobbiamo fare in modo che ce ne sia un altro. Allora io mi aspetto che le parti sociali si assumano la responsabilità di fare il passo successivo, che è un passo lungo, non è un piccolo passo, cioè si tratta, anche qui c'è un elemento di discontinuità, e dire qui c'è da rifondare il sistema politico, c'è da riformulare l'offerta politica, dicevamo prima con Giannino, e quindi come dire, assumersi la responsabilità anche di giocare una partita in presa diretta, perché siamo come nel 93-94, c'è da reimmaginare il sistema politico e i suoi attori, e quindi il passaggio successivo è un passaggio assolutamente determinante, se no altrimenti avremmo fatto un bel documento, è bene che ci sia l'unità intorno a questi auspici, ma auspici rimarranno. Ha sentito Malavasi, e io anche sono un po' dell'idea che bisogna dire alla gente, a chi si preoccupa delle sorti dell'Italia, che è venuto il momento di ricominciare dal basso, ricostruire l'offerta politica diversa da quella esistente, che è stata messa più che abbondantemente alla prova e con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ma secondo lei, Malavasi, esisterebbe la possibilità di una convergenza, non dico altrettanto granitica, ampia ed estesa, ma comunque le risposte che verrebbero dal sistema diverso mondo delle imprese e del lavoro a una contingenza di questo tipo sarebbero tali da far pensare che il mondo dell'associazionismo, della rappresentanza, del lavoro eccetera è disposto poi a costruire, a impegnarsi in questa cosa di modificarla l'offerta politica secondo lei? Ma guardate, voi sottolineate un aspetto che io condivido profondamente, non può rimanere un atto di responsabilità isolato, perché caderebbe nel marasma delle polemiche politiche e verrebbe accantonato in poco tempo. Io credo che le associazioni abbiano la qualità, la volontà, pur nella differenza delle competenze, una voglia di essere utile al Paese. Questo vuol dire che siamo disposti a giocare una partita di assunzioni di responsabilità, e per le manovre che eventualmente sono da fare, ma anche per una classe dirigente che ha bisogno di essere rifondata, come dite voi. Allora, sullo sfondo lasciamo questo punto sul quale torneremo poi con telefonate di ascoltatori. Ci ha raggiunto telefonicamente Gianni De Michelis, ex ministro degli esteri, presidente dell'IPALMO, quindi uno degli attori del sistema che si occupa della politica estera di cooperazione del nostro paese. De Michelis, l'impressione è che la crisi americana ce la lasciamo molto sullo sfondo e che però esprime, come abbiamo visto con l'ambasciatore Castellaneta, le difficoltà di un sistema politico che sembrano non inferiori per tanti versi all'incapacità europea di dare risposte adeguate. Una cosa che molti ascoltatori chiedono di capire meglio è: ma alla fine i cinesi avevano da guadagnare o hanno dei che temere dal default americano? E poi, in realtà, poiché stanno nella condizione, con le riserve che hanno, di diventare loro i veri giudici ogni giorno sui mercati di quale debito sovrano o privato sostenere e di quale non sostenere, in realtà in questa curva della crisi mondiale in cui l'America ha i suoi guai e noi, come si vede, non siamo secondi, i cinesi sono più vicini a sostenere noi o hanno tutto l'interesse a sostenere il paese le cui riserve hanno in quantità così elevate e quindi non devono sperare che non si deprezzino troppo? In realtà molti osservano, se la crisi americana dovesse proseguire e l'effetto di un mancato accordo o di un accordo striminzito fosse quello di un deprezzamento del dollaro, a rimetterci è l'euro che sale, l'esporto europeo diventa più difficile da piazzare, ma tutto sommato, se poi il dollaro scende, la valuta cinese è collegata a un rapporto semifisso di cambio e quindi scenderebbe pure lei e i cinesi si avvantaggerebbero. In due parole, non troppo tecnicamente, ma in realtà dal suo osservatorio, sti cinesi sono più vicini agli europei nei guai o agli americani nei guai o a nessuno dei due? Ma allora, innanzitutto, non c'è il minimo dubbio che i cinesi sono molto preoccupati, e sono molto preoccupati perché ovviamente si rendono conto che fanno parte molto più di prima di un sistema che è un sistema globalizzato, e quindi quello che avviene nelle altre parti del mondo e soprattutto nelle parti che per ora sono ancora più importanti della Cina del mondo, quindi negli Stati Uniti e in Europa, in qualche modo li influenza. E naturalmente da questo punto di vista i cinesi sarebbero estremamente interessati a andare a fare dei passi in avanti nella direzione di quella che io chiamo una governance efficace di un mondo che ormai è inevitabilmente, irreversibilmente multipolare. Naturalmente per fare questo devono essere raggiunti dei compromessi, innanzitutto sul tema dei rapporti tra le monete, del sistema monetario globale, e naturalmente questo compromesso che i cinesi propongono ormai dal 2009, presuppone una cessione almeno parziale di sovranità sul dollaro da parte americana, e naturalmente Obama non è in condizioni, per le ragioni che stiamo vedendo proprio in questi giorni di politica interna americana, di negoziare questo tipo di compromesso, e questa è la ragione per la quale il sistema globale e quindi poi anche l'atteggiamento della Cina è estremamente, come si può dire, preoccupato. Naturalmente in questo contesto i cinesi avrebbero interesse a una situazione, come si può dire, multipolare anche dal punto di vista dell'ordine monetario, e quindi naturalmente avrebbero interesse a un euro capace di giocare la sua parte accanto al dollaro più internazionalizzato e accanto ovviamente al renminbi e quindi alla moneta cinese. Naturalmente su questo, come si può dire, siamo ancora molto lontani, e quello che sta avvenendo in queste ore negli Stati Uniti e in parte anche quello che sta avvenendo in Europa è il segno della difficoltà complessiva, e però nessuno può sottrarsi perché ormai in qualche maniera il processo di globalizzazione è proceduto fino al punto tale che nessuno può tornare indietro. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, sentiamo come la pensa un ascoltatore, Patrick, che ci chiama da Venezia. Prego Patrick. Salve, buongiorno a tutti. Ascolti, io ho l'impressione che questa classe politica non è in grado di rimediare alla situazione per un conflitto di interessi, perché sarebbe costretta a tagliare in maniera drastica la spesa pubblica e quindi a minare il proprio consenso. E ho l'impressione che la tentazione di andare a cadere su una patrimoniale straordinaria pesantissima sui risparmiatori sarà una tentazione a cui la politica, come dire, dovrà fare i conti molto più presto di quello che pensavamo. E io le dico che da risparmiatore, piccolo risparmiatore, per quanto mi riguarda, ho già fatto i miei conti, e quello che avevo, quel poco che avevo, l'ho portato al di là del confine. perché non è possibile che i danni di 50 anni di mala politica vadano pagati dai piccoli risparmiatori italiani, e non vedo perché se Deutsche Bank vende i titoli del Stato italiani non possono farle anche i nostri risparmiatori. Esatto. E quindi siamo in una situazione di Unione Europea e sono le banche al quale confine in Svizzera e in Austria che parlano italiano, che fanno un ottimo servizio, direi anche migliore delle banche italiane, e quindi il risparmiatore ha tutta la libertà, per quanto mi riguarda, di portare i propri risparmi al di là del confine. E probabilmente la patrimoniale non sarà annunciata, sarà fatta di notte come quando l'ha fatta Amato, ma non vedo perché noi dobbiamo pagare la pensione a Gianni De Michelis e con i nostri risparmi di una vita. Grazie. Su Patrick, adesso la pensione di Gianni Michelis è il problema, con tutto il rispetto, non mi pare, cioè, perché vedete che avete sempre questa roba che identificate poi la questione con il portafoglio di qualcuno. Qui il problema è del portafoglio dello Stato innanzitutto, perché il problema è che io come cittadino, con le tasse che mi sono arrivate questa settimana, devo dire che come tutti non lo so, ma come tantissimi, come la stragrande maggioranza, faccio tutto quello che lo Stato mi obbliga a fare in quanto libero professionista titolare di due società, cioè gli do il mio sangue. Detto questo, però, non posso accettare come una cosa equa che chi ha il portafoglio pieno, lo Stato, che visto che è il tesoro che mi dice che l'attivo supera abbondantemente e per fortuna il suo debito pubblico, e visto che mi dice che ha rifatto una stima di almeno 400 miliardi di euro a valore di mercato di patrimonio immobiliare cedibile o da mettere a reddito, e beh, io non posso tollerare che sia equo e fondato l'argomento che chi ha un portafoglio così ampio mi mette mano al portafoglio mio dopo che mi prende tutto quello che mi prende. Ecco, alzo la voce perché penso di doverlo fare a nome di tanti ascoltatori, non perché sia matto o cioè abbia la pressione alta, perché penso che quel giorno, se noi non ci muoviamo prima, se non seguiamo il filo di ragionamenti come quello di Enrico Cisnetto, che si dipaneranno giorno per giorno in tutti i giorni degli incontri di Cortina Incontra, andate a vedere il calendario sul sito www.cortinaincontra.it, se noi non ci mettiamo prima a mettere mano a una modifica della legge elettorale, dell'offerta elettorale, se non ci ribelliamo all'idea che Berlusconi e il PDL è intoccabile, malgrado che da 17 anni che dicono una cosa e ne fanno un'altra e rispondono dicendo mi sono dimesso da inquilino, basta quella come risposta? Sinceramente io stimo tantissimo il ministro Tremonti, ma non credo che basti, lo ripeto 3 volte. Detto tutto questo, c'è ben di peggio, però il giorno in cui arriva di notte altrimenti la patrimoniale, se non abbiamo fatto qualcosa di tutto questo, beh, purtroppo la patrimoniale ci tocca pagarla se non vogliamo essere arrestati. Sergio da Bologna, rapidamente, che ne pensa Sergio da Bologna? Ma guardi, io vorrei che qualcuno mi... Buongiorno innanzitutto. Sì. Vorrei che qualcuno mi spiegasse quella montagna di prodotti tossici che rimetteranno sul mercato, che fine hanno fatto, visto che i governi, soprattutto quello americano, dovevano assorbire, le banche dovevano ricominciare da capo. Invece la montagna è sempre quella, i prodotti tossici ce li somministreranno in un altro modo, ce li spalmeranno. Sergio, io ti ho sentito poco perché c'è un problema tecnico di collegamento. Lei in buona sostanza dice non abbiamo risolto alla radice il problema della tossicità, dei problemi di debito, di quei prodotti che accumulano debiti di cui diverse porzioni di valore il mercato non è in grado di scontare. In larghissima misura è vero. In larghissima misura i piani, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno rifinanziato le banche, hanno ritirato solo una parte di quei prodotti. Questo è tutto un altro filone, però ci porterebbe molto lontano, perché è un filone in cui mettere a fuoco le specificità dell'intermediazione finanziaria sul modello anglosassone, cioè ad alta leva, a bassa congruità patrimoniale e a bassa perspicuità dei rischi degli emittenti a fronte di quello dei prenditori per tipo di prodotto finanziario. Oggi stiamo parlando di crisi di sostenibilità e crisi di fiducia dei debiti sovrani, cioè di quello del nostro paese, dell'euro crisi da questo punto di vista, e di quello americano, perché il 2 agosto si avvicina. Va bene Enrico, ti chiedo un'ultima parola al volo. Quando esaurirete il vostro programma a fine agosto, se dovessi dire dove stanno gli spread a oggi, ti senti di dare un'indicazione di che tipo? È chiaro che ci vuole una palla di vetro, ma insomma ne abbiamo visti di agosti difficili, ne abbiamo visti, e quindi un po' di esperienza ce l'hai. Beh, insomma, io credo che a fine agosto gli spread spero non siano oltre quello a cui abbiamo già visto arrivare. Ho la netta sensazione che non saranno, io dico di non più, saranno rientrati nei ranghi dei 150, dei 180 punti che erano prima. Abbiamo fatto un calcolo, l'ha fatto lo stesso Tesoro, anche la Banca d'Italia, che già con gli aumenti di oneri sul debito che ci sono stati, ci siamo già più che mangiati il ritocchino della manovra che abbiamo fatto per quest'anno, e quindi la mia impressione è che forse quel famoso punto di caduta della vicenda politica di cui stavamo parlando prima si troverà nel momento in cui bisognerà fare ulteriormente dei passaggi in questo senso. Io non sono uno che demonizza quella che viene chiamata patrimoniale, secondo me con un eccesso di drammatizzazione, dici tu? No, io dico, come dire, la casa comune, dobbiamo pensare che la casa comune ci copre giusto, contribuire, e gli italiani sono sufficientemente ricchi per poterlo fare. Il problema è, se me la portano via con la pistola puntata alla tempia, mi incavo anch'io. Se invece c'è un progetto e io debbo e posso contribuire a realizzare questo progetto, non mi tiro indietro. Diciamo, se c'è un progetto in cui lo Stato fa del suo, fa una riforma fiscale, poi privatizza un po' di quello che può privatizzare, eccetera, eccetera. Di questo progetto, però, Enrico, fino a questo momento non ne abbiamo visto traccia. E io temo che senza di quello sia la soluzione pistola puntata alla tempia, per così dire, quella che ci aspetta. Comunque, io non voglio rovinare né a tutti coloro che giusto che vadano agli incontri di Cortina Incontra, andateci, fidatevi, non va sospeso il pensiero solo perché è agosto, né agli italiani che si apprestano ad andare in vacanza, sono già in vacanza, la voglia di pensare un po' ad altro. Però nel ringraziare Enrico Cisnetto, Giovanni Castellaneta, Gianni De Micheli, Silvan Malavasi, nel prendere commiato da voi oggi e nel prendere commiato per qualche settimana, perché mi rimpiazzano, perché viene agosto anche per me, io dico: ragazzi, non mollate in questo agosto, perché il peggio può venire, e però la risposta non può che venire da voi, dalle associazioni di impresa, dai sindacati, da chi si impegna ogni giorno con il proprio lavoro e il proprio reddito. Basta a una politica che è un furto di futuro ed è un furto di presente, e in questo il mio giudizio è radicale sul centrodestra e sul centrosinistra. A quando ritornerò? Ma ritornerò. Ma intanto, buon agosto. Radio 24. La passione si sente. Saab. Tutto cominciò con un aereo, eppure è la storia di un'auto. Vi ha presentato 9 in punto.